Puntuali siamo con il jazz, 11:30 minuti di questa vigilia di weekend 5 aprile, vigilia di weekend di primavera, confermata anche dallo starnutire continuo di Alfredo, che sarà colonna sonora oltre che la buona musica che proponiamo a breve. Buongiorno Alfredo. Sì, buongiorno Willy. Adesso capisco perché ogni tanto, no, magari sabato e domenica piove, perché la pioggia scaccia. No, non è vero, aumenta. Ah, perché diffonde magari. E poi abbassa la pressione, caso. Noi allergici. Ho capito. Allora, viva il sole. Il tono non è un pessimismo mirato. No. È magari un pessimismo a volte giustificato dalle nuvole. Per esorcizzare. Ma parliamo di jazz. Parliamo salute. Prego. Allora, intanto ci siamo, per così dire, riposati, perché non abbiamo ascoltato per voi. È stata la Pasqua 2024 e non abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, assistito a concerti. Come se, ho detto, ci siamo riposati, come se assistere a concerti fosse questo lavoro, hai capito? Questa, ma sai, c'è sofferenza. Siccome Pasqua era un nuvoloso brutto, mi sono fatto tanti bei dischi, anche di quelli che da un pezzo che non sentivo più. E magari li proponiamo nelle prossime puntate con una selezione primavera e estate, come la collezione moda, no Alfredo? Sì, sì. 2024. Un pret-à-porter jazzistico. E iniziamo subito con la rassegna del Torrione, che per questo ricchissimo weekend parte già da questa sera alle ore 21:30 con un trio: Joel Fram al sax tenore, lui il frontman della formazione. Allora, io l'ho conosciuto per un disco in duo con Brad Mehldau, un disco molto bello. Lui ha un fraseggio molto fluido, è vero, una parte blues e nello stesso tempo l'incrocio con un post bop molto interessante. È raffinato, modern jazz particolare, intenso, e si vede anche dai suoi spostamenti, no? Lui, dopo oltre 3 decenni di presenza fissa nei club di New York, questo premiato saxofonista, pluripremiato saxofonista e compositore, stimato docente anche, si trasferisce a Nashville, altra città della musica peraltro. Sì, ma non del jazz in particolare. No. Solitamente il West Coast o New York, quella. Ma il Nashville è più per, no, è più bello. Magari qualche galoppata di Frisell nella musica sì, country. C'è nell'aspetto country. Però comunque, certo, va bene. Beh, lui continua una carriera e una ricerca ed è apparso, come ho già detto, a fianco ad artisti come Brad Mehldau. Ha registrato brani con Diane Shore e le collaborazioni assolutamente sono importanti. Ma il suo nuovo progetto vede brani originali, jazz standard e in linea con la tradizione, come ho detto in precedenza, con il post bop. La cifra dei 3 strumentisti, improvvisatori e compositori al suo fianco sia nel concerto che nel CD sono Dan Loomis al contrabbasso, Ernesto Cervini alla batteria. Il disco è The Bright Side, la parte luminosa, già dal titolo insomma c'è tanto bisogno. Lui di una parte luminosa. Si rifà Stan Getz col 3 indice, che non è poco, oppure per gli attuali Chris Potter, un suo riferimento, è inciso, dicevi tu, per la etichetta Palmetto, questo Sarin Adifkauf, e parlavi di Mehldau, famoso il suo duo con Mehldau, importante, Dante Splendida, la Biglioli. Ah, è vero. Sì, infatti è il disco, guarda, lo teniamo come base magari nel stacco tra un brano e l'altro. Dante Splendida è questo, ed è un gran bel disco fra l'altro. Questo invece che vi sto anticipando è con il suo trio, dalla parte più luminosa, The Bright Side, il titolo, disponibile per Anzic Record, ed è infatti manifesto, se vogliamo, di quanto la formazione sia coesa e ispirata. E noi lo ascoltiamo, The Bright Side, Joel Fram Trio. Bright Side è il titolo del disco che verrà presentato questa sera alle ore 21:30 al Torrione per Joel Fram, il suo trio, con Don Loomis al contrabbasso e Ernesto Cervini alla batteria. Anche molto leggibile, molto ballabile, gustoso, ecco. Sì, sì, un bel fraseggio questo. 74enne. Ah, però sai che pensavo più giovane. E invece è nato nel 70. È nato nel 70? Sì. Allora un anno in meno di me, che 74 anni, Alfredo, su dai. 54 anni, per male i calcoli. No, ma sono io che li porto male. No, no, ma è lui che li porta bene. Hai citato Stan Getz in alcuni fraseggi in apertura, in effetti ricorda questa sonorità assolutamente fluida di gusto e con la capacità di intersezione con gli altri musicisti, seppur in trio quanto mai intenso e pieno. Passiamo a sabato abbiamo una conoscenza del Torrione che risponde a nome Mark Turner, non solo conoscenza del Torrione ma anche per quanto riguarda un modern jazz di scuola newyorkese che va ben oltre, con collaborazioni che trovano i Fly, ha suonato anche con la prima formazione in collaborazione con i Bad Plus. Insomma, parliamo di Mark Turner. Ci dovrebbe avere le chiavi, anzi, cittadinanza onoraria al Torrione. Ogni anno c'è sempre. Sì, c'è. È un sempre. Punto fisso. E infatti, ho detto ha una particolare attinenza con il Torrione. Oh, io non mi lamento perché no, è un concerto assolutamente molto carico e nello stesso tempo molto intellettuale. Sì, lui molto cool. Rappresenta un cool jazz moderno. È una versione. Quasi un roll school jazz. Sì, sì, sì. Molto raffinato. Intensità raffinata insieme a Jason Palmer alla l'ottimo tromba, trombettista. Joe Martin al contrabbasso, Jonathan Pinson alla batteria. È la stessa, identica formazione del lavoro Return from the Stars. E insieme a un altro lavoro, sempre con ECM, di cui adesso Leather of Heaven. Entrambi i dischi, insomma, saranno riproposti all'interno del concerto per sabato 6 aprile, cioè domani alle ore 21:30 al Torrione. Lui, sai cosa presentano? Presentano il disco Live at Village Vanguard. Sì, che esatto. Ci dà dei ricordi. Esatto. Quanti live al Village Vanguard abbiamo sentito? Beh, jazz live poi è di casa. Da Coltrane, Archie Shepp, Sonny Rollins, tanti altri. È diciamo così una mecca per Beh, sì, li dobbiamo passare. E quindi giustamente uno dei saxofonisti più talentuosi, Mark Turner, lui stesso rende omaggio, se vogliamo. Le unioni di questi due dischi che sono per così dire presentati da ECM saranno a sua volta motivo di concerto al Torrione con tributo al live Return from the Stars e Leather of Heaven live at the Village Vanguard. Per quanto riguarda il ritorno dalle stelle, Return from the Stars, vi propongo un brano, quindi un buon ascolto. Vi dico anche il titolo del brano, guarda, It's Not Right With Me. Non è poi tutto così a posto, con me. Su questo musicista che a me piace molto, che è Mark Turner. Però volevo dire, per completezza di informazione, visto che siamo a Jazz Live e che i musicisti quando sono in tournée si alternano, per quanto riguarda l'inizio di Weekend a Ferrara con Joel Fram Trio, lo troveremo sabato, invece sabato 6 aprile a Bologna al Camera Jazz, nella serata che lo vede in intersezione con il Bologna Jazz Festival. Quindi abbiamo venerdì a Ferrara, cioè questa sera, e domani al Camera Jazz Joel Fram Trio, quando sono in tournée, giustamente coprono più sedi possibili. Prima parlavamo, Willy, del Cool Jazz, questo interludio tra sax e bellissimo che ricordi i vecchi Lee Collins, Wurm Marsh, oppure Paul Desmond, Chet Baker, ricordavi giustamente, cioè questo dialogare così, sì, che in modo raffinatissimo, sottile, raffinato, un musicista, per me lui è un grande intellettuale della musica, sì, e ha una capacità espressiva sia nel virtuosismo che nella composizione, per cui c'è un concerto che ho messo con l'evidenziatore sul programma del Torrione per domani. E la domenica? Caspita, anche domenica, però direi che abbiamo, insomma, da portare un'altra realtà, una crema del jazz italiano. Ma davvero, abbiamo Francesco Bigoni, sax tenore e clarinetto, Diodati alla chitarra. È un doppio duo, come l'ha definito Bigoni, che ho sentito qualche giorno fa per dare anticipazione del progetto Wave 4, che vede Benoit Delbecq al pianoforte e Steve Argelles alla batteria. Ha detto: noi siamo praticamente un doppio duo, mi è venuto in mente Ornette Coleman con sì, due quartetti, no, del free jazz. Mi è venuto in mente così, per che non c'entra motivi, niente, ma come no, idea, non c'entra assolutamente, no, assolutamente. Però Bigoni, tra i musicisti italiani, è uno tra i più dotati. Viaggia. Esattamente, viaggia in tutti i sensi. Poi, comunque, io, per quanto riguarda questo concerto, ho voluto saperne di più, ho contattato Francesco e sentiamo le sue parole di presentazione. La nostra conversazione dalla formazione che avrai vicino per la serata di domenica in conclusione di Weekend imminente per il Torrione di Ferrara. Francesco Bigoni è qui con noi, buongiorno e bentornato Francesco. Buongiorno William, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Mi hai anticipato il contenuto con prima domanda dell'intervista. Allora, a proposito della formazione, che lascio presentare a te, cosa ci puoi dire? Intanto che è una formazione curiosa non solo per la strumentazione ma anche per la maniera in cui è nata. Io e Francesco Diodati abbiamo suonato moltissimo insieme e Benoît Delbecq e Steve Arguelles hanno suonato tanto insieme, qualcosa come 35-40 anni. Quindi sono due dui che si uniscono di sodalizi musicali molto lunghi che vanno a originare questo nuovo quartetto. Cosa hanno in comune e quali divergenze? Ma in comune hanno l'idea di lavorare su materiali molto diversi, quindi una sorta di eclettismo più che stilistico legato proprio agli approcci e alla qualità dell'improvvisazione. E poi un'attenzione al suono e al timbro particolare, perché sia Francesco Diodati con la chitarra che Benoît e Steve lavorano moltissimo dal punto di vista timbrico. Benoît prepara molto il pianoforte, Steve suona un set di batteria con pelli animali e quindi ha dei suoni molto, molto strani, molto particolari. E infatti mi hai detto di una particolarità per quanto riguarda, anzi di particolarità per quanto riguarda anche gli strumenti. Gli strumenti non c'è la questione classica dell'assenza del basso, che in contesto jazzistico fa sempre drizzare un po' le orecchie, e che per noi in realtà risulta davvero dalla combinazione delle persone più che a pensare agli strumenti. Peraltro Benoît svolge un ruolo bassistico perché usa questa bass station, che è un synth analogico che si sente moltissimo nel drum and bass degli anni 90. E quindi ci sarà anche una parte elettronica? La parte elettronica c'è ed è appunto un sintetizzatore, poi la pedaliera della chitarra realizza glitch, certo, loop e delay vari, e Steve fa un po' di live sampling, soprattutto su di me, sul sassofono e sul clarinetto, ma anche sulla batteria, quindi c'è anche una dimensione di live sampling aggiunto. Thank you. sax tenori per quanto riguarda la programmazione, con Joel Fram, Mark Turner, e la chiusura stiamo ascoltando Francesco Bigoni. Anche Francesco ha una bella ricerca nel suono e nella proposta musicale, nell'espressione. Sai che uno magari da casa pensa che noi facciamo un gran conciliabolo redazionale scegliendo i pezzi. No, i pezzi li senti in diretta quando li metti su, e devo dire che per esempio è doppio il piacere quando scopro pezzi del genere. È una sorpresa. Sì, perché tra l'altro con l'intervista precedente capiamo perché non c'è il contrabbasso, perché mancanza del basso crea ancora in più in sospensione questo ritmo inafferrabile con la perfetta esecuzione ritmica della chitarra e batteria. Diciamo la verità, è il sax di Bigoni che è veramente bravo a snodarsi così sinuoso come un serpente su questa bella questa frase molto poetica, già un po' da Tarzan. Ascolteremo musiche originali di vostra composizione, interpretazioni, come possiamo presentare anche le sonorità in ascolto. Pezzi originali è un gruppo collettivo, scriviamo tutti e quattro. Il nostro disco di debutto è uscito l'anno scorso per parte della Musica Records, e il giro che andremo a iniziare è un giro di preparazione di una nuova seduta di registrazione, quindi quello che ascolterete, ascolteremo anche noi per una delle primissime volte al Torrione, è un repertorio nuovo basato su composizioni originali dei quattro componenti del gruppo. Cioè una presentazione di un progetto futuro? Praticamente sì, sai, è una delle nostre chiavi di lettura musicale è un po' l'idea del non finito in musica, quindi i pezzi sono sempre molto aperti. È difficile, la dimensione temporale un po' viene un po' fregata da questa cosa, tant'è che una cosa che ho detto spesso e che mi succede con questo gruppo è che io perdo totalmente la cognizione del tempo quando suono. Beh, mica male, comunque una caratteristica originale, oltre che originalità nella musica, nella sensazione. E domenica 7 aprile Wave 4 con Francesco Bigoni, sax tenore e clarinetto, Francesco Diodati alla chitarra, Benoit Delbecq al pianoforte e Steve Urgell alla batteria. Io ti ringrazio tantissimo Francesco, ci vediamo a Ferrara e ti auguro una buona giornata. Grazie a te William altrettanto, ciao a tutti. E con questo terzetto abbiamo portato il weekend ricchissimo e variegato al Torrione, questo weekend di primavera, quindi con grandi note nel Jazz Club Estense. E intanto che ci avviciniamo alla pubblicità, qualche anticipazione, ma non troppo, qualche traccia. Preferisci il rientro dopo la pubblicità con Steve Lacy o con Galliano e Portal assieme? Dimmi tu. Io non ho dubbi, Steve Lacy. Per me Steve Lacy è un mito. Perfetto. Rientreremo allora, dando una continuità alla colonna sonora, con il suggerimento di Alfredo. A tra poco.